avanti, chi è? Se arrivate baci non è colpa nostra, qua c'è QRM a Sassari, stiamo parlando del locale, già viene difficile a volte parlare tra di noi, cosa vuoi ti dica? Comunque io ti ho sentito, dimmi cosa stavi dicendo, non hai capito che cosa? Però non lo so, secondo me me lo compro anche io. Ucraina che ha pagato. No, non si compra su Ucraina. Ho il cattavo pure, cioè 4,90, 7,90 e 110. E poi nel 2006 ho cattavo. Bello è Luca, qua, è un bello apparecchio, bello veramente, sono qui, sono in auguri con l'apparecchio, è troppo bello. Più o meno come 48. La grandezza è leggermente più grandezza del 548 Swiss, però c'è il finale a mossa, capito? Può utilizzare qualunque tipo di amplificatore, non va in saturazione. Che affetto, che va bello. Vabbè, vale nuovo, ma anch'io non è creato da nessuno, va bene. Quanti anni di garanzia, Opera? Un anno ne ha, un anno di garanzia. Ma il sigillo ha? Via? Manca. Va bene, avanti Angelino, mi ascolti? Non mi senti a me. Aspetta Claudio. Luca. Chi è? Chi è che mi chiama? Che mi sta chiamando, avanti. Salvatore, ciao. Ciao Salvatore, mi sto preparando, devo uscire. Ciao, ma stai passando? Verso le 3:20 passo qua, sto facendo le faccia al capo, tanto c'è una quell'ora, non apre, 6:30 apro, non apre. Ah, io che fanno l'aereo continuato. Aspetta che mi prendono il caffè, cazzo, mi devo lasciare anche la benzina. Se trovo quella roba che ti ho letto anche. Dai, così mettiamo il baracchino in macchina, il mio nella macchina tua, che gli ho messo le banane. Ho fatto la banana e anche la pesca, la pera. No, in macchina mia io ho messo il mio baracchino. Dai, che mettiamo questo, io a vedere come va. Cappa di rosmetto. E così fai. Ai ai, gappa gappa. Anche tu Luigi, Luigi. Ciao un buco. prenotazione, una frequenza molto vicino alla nostra. Grazie. mette lo stesso sistema è quello lì, perché c'è il compressore incorporato. Anche questo è così, anche questo, si sente la modulazione, anche questo è così, c'è scritto, con autoregolazione in audio, capito? È così, è uguale, solo che questo non è toccato, non è modificato, è già nato così dalla casa, capito? È solo da attivare e basta. Poi la potenza passa da 4 watt a 12 watt, senza toccare nessun trimmerino, niente, nulla di niente. Capito? Senza toccare finali, senza toccare niente. È già predisposto perché c'è il finale a mosse da 12 watt, capito? Va bene così, va bene tutto. Franco, aiuto. Franco. Tere, ma è già uscito Franco? Forse è già uscito Franco. Luca. Cerca la maglia. Ma va bene comunque, dai, io ho preso questa decisione perché almeno sono sicuro che la radio funziona bene, è nuova, in garanzia, ho salvato lo scontrino, tutto, va bene così, dai, poi se qualcuno se la vuole comprare, va, ce la compra. Tutti a questo. sul DVD portante nemico, ma poco non è bello, DVD, graviglia, ciubotto, tutto va giubilato. Ascolta, ma quello che fa il video? Il DVD della Philips, quello che mette il DVD piccolino, che la mettere in macchina. Ah, ho capito, no, l'aria vuole quello portatile, l'MP3. E anche MP3, ah, l'iPod stai dicendo tu, anche quello suona MP3, di DVD, di tutto quanto, molto bello, fammi scendere e riprendo subito. Poi mi dici dove lo trovo questo cacchio iPod. Luigi? Luigi Vulcano? Oia, è Gianni lì, è già dormito c'è, Gianni sparecchiando stai. Demoralizzato Gianni, cazzo, ne ha cosa che compare già non andava via, per carità. Gianni, se qualche volta avessi ascoltato. Ah, non me la fotte più nulla a me, no. A me quando mi chiede un controllo dico, se sto facendo bene, sto facendo bene, se sto facendo male dico che è uno schifo. Perché, cosa gli dici? Capito? Tutto lì. Non ce n'è radio come questa, Antonio, lo sai, quanto è me è meglio di me, non ce n'è per nessuno, proprio per nessuno, con tutte le radio che ho provato, non ce n'è neanche una che esce bene come questa. Cosa vuole Seria? Grazie Giulio, io di là vi vengo in busciacara, stretti, e quando li spendo bene, e direttamente l'unica da buttare. Non solo Giarine, che ci arrangi, faccio il tempo che le fa le piace. Luigi! Ha bisogno di una farata a macchia, Luigi. Mi sembra di cibo. Forse non risponde. Poi esci da la nuda, con la sottotitoli di Russi. Ma quelle radio sono così, una volta che le metti dentro le mani, le sputi e fai, cioè sempre modificate sono, non sono mai originali, capito? Quindi è così, perché lui l'altra volta mi ha detto che stava entrando dentro il supermercato, qui nel supermercato c'hanno un ricetrasmettitore di quelli interni a larga banda, quindi sicuramente entra per quello, perché l'audio è troppo alto. No, chi è toccata la radio è tuya. Una e l'altra. A chiedere da svincolare, poi c'era 8, a 10, e poi cosa vuoi dire? Ma la oscurie. È logico che entrano. Nello stadio finale audio entrano e quindi risulta che sento che lo sentono da quelle parti, si entrava il citofono, lui non solo che nel telefono, nella radio, in ogni rogo entravo. E a voi che si chiamano? Una volta l'abbiamo messo mano. Ma mi sente? Che faceva così? Grappa del rosmetro, Robert è rientrato, sì. Senti a Roberto, Natalino glielo senti. Roberto, la senti a ombra? Aspetta, segnale, non te lo so dire perché non sta guardando. Buonasera signora, dopo 20 anni ci si risente, forse anche di più di 20 anni. Capo, no, io già ti sento bene. Ma forse devo cambiare la batteria questo mai. Il radio basta? No, chiara, perfetta, modulazione normale, molto dinamica, senza amplificazione, però si sente bene. Ora io adesso sto uscendo fuori Sassari, tieni conto questo. E fra un poco, non so se arrivi o sparirai, devo fare una strada un po' tortuosa. Adesso mi ascolti meglio, vabbè, io sto uscendo su Antenna, c'ho un vicolo, quindi, una cosa così, disastra. No, adesso ti sento bene, qua io sono sullo scorrimento Sassari-Usini, ti sto ascoltando benissimo. Benissimo, la radio è forte qua, sta arrivando benissimo. Roberto Meccanico era quello, l'hai riconosciuto? Sì, sì, è certo, io Roberto c'è un po' di parola, ma c'è tutto questo freddo, come è arrivato l'inverno? Freddo, c'è freddo, è abbastanza, amica tua già coricata. Io adesso sto andandomi con Franco che dobbiamo comprare della roba che ci serve e poi me ne rientro a casa e noi subito. Ma ne sto a casa, calluccio, sto la sera e via. Capito? Avanti Natali per ombra. Ciao, mi senti ombra? Meglio, ciao Natali, ti sento, avanti. Grazie, anche io ti sento bene, là, non problema. Ok, là, io volevo interrompere perché devo fare cosa qua. Sentiamo le prossime, salutoni a tutti, là. Ciao, buono, quello di Claudio. Ciao. E quindi Claudio, devi uscire? Oh, buonasera a tutti. Ciao, ti ha salutato, mi è sembrato Michele. Ci devo uscire con Franco Califone, dobbiamo fare, ci hanno indicato di prendere della roba stamattina per domani, siamo assieme. Niente, e poi me ne rientro a casa e mi sto a casa, perché c'è abbastanza freddo fuori e non ne ho nessuna voglia di stare in giro, capito? Avanti Michele. Ma cosa, non ti sei marito? anni insieme a lei, come se fosse sposato. Auguri, auguri, vabbè, ma frequenti le tenenti? Frequenti, che immagino è stato frequenti le tenenti in famiglia. Ma la chiedi sì. No, ma dove viaggio stai tu? Sì, c'era 10 anni fa. Sì, quando avevo quel Galaxy, che ti avevo detto che era diventato cieco, no? Ah, non lo vuole di qui, dimmi. Non lo magari, no? Ma se, sai, no, una pubblica malattolata, non ti capisco bene. Aspetta che cambio la malattia, 2 secondi. Che faccio cosa che arrivo più forte. Alla radio, eh. No, se sono una malattia omologata, aspetta che faccio passo con l'altro, comunque già è, cambiano le cose. Che è Fred? Chi sei rimasto? Ciu. Ciao Anna. Ciao Walter. Come va? Bene, come stai? La voce è sempre uguale, però la stazione è appena. La stazione è più decadente, no, stanco, sono entrato poco fa. Ti saluto, dove sei, giù a casa? No, sono a casa mia. Ma, ascolta, no, comunque non l'ho fatti, è quello che volevo passare a me. Cosa sei, all'estimento? No, sono a Sassari anch'io, in un'altra postazione. Sono con grande, come vado con quello? Ecco, c'è un microfono, guarda, in alto, cioè, c'è il capo lungo, morbido, morbido. Meglio così, no, come lo fai venire, là? Se passi qua vicino, così mi offri anche la via. Sua, che c'è proprio l'antenna per male, non il cavo come l'altra volta. Aspetta un attimo, io passo e sono. Adesso no. 6960. Che si bagna quel cazzo di 58 che c'ha quel PL va in tilt. Cazzo, lei ha voglia che ti ascolto bene, già dire Anna che io c'ho l'antenna che la grappa che c'ho lo stilo storto, non mi sa un mese e c'ho lo stilo bigliato e io scuso per bene, però ho fatto un impianto provvisorio che va bene, quando fai serio boh, mi vado tutto in terra. Se lo pensi se lo di polo, a voglia. Se si ha Sassari. E non sa per fare allora, ormai c'è tutto. Sì, sono la vita, prima che ti avete punti. Ma ero piccola. E adesso cosa vuol dire che abiti? 7 anni sì. 10 anni che sto qua. Gianni, stai scendo male, ma male lì. Passa su 23, 27, 255. Dimmi Anna, cosa sta dicendo? Ho detto chi mi chiusa stiamo arrivando. No, ce l'ha fatta, stava chiamando a Gialli e passare su 23. Io sempre qua, al corso. Carburati momentaneamente non ci sono, da 7 anni a questa parte. Ma sempre su 14, no? Fin bello, sì, sempre su 14. Senti. Claudio, mi senti? No, io ti sento un posto, però va bene. Aspetta. Lì c'era una roba più grande. Se c'è voi, cosa c'è la tua annata? 7 minuti alla tua. Se c'hai figli, sei femminuccia? O maschietto, blu? No, c'è un maschio. Figlio molto già un maschio. E con la cosa piccolina per la femminuccia. Perché l'aspetta anche la... Ah? Un maschio femminuccia, non so che c'è. Perché sto aspettando anche io adesso, la ciccogna. Auguri, una bella. Ehi, ho messo la promozione, ho detto, guarda, adesso la sfondiamo. Questa è la zona buona, mia Anna. Grazie. C'è un brasiliano negro, tutto ciò qua vicino. Ehi, molto c'è. Buona allegria. Davvero, me. Ci vedo tutti vicino. Felizio, porta su una prova, là. Allora siamo vicinissimo. Io sono in area, fianco a Claudia. Allora siamo vicinissimi. Io sono in corso vicino da lui e Claudia. Dove c'è stamattina? Claudia di là, quindi siamo vicini nell'aria. Io sono a fianco a Coso, a Padre Francisco. Pensando, sta solo ascoltando qualche volta. Chissà se c'è un gelato. E Anna, che trucchi miei c'è un giorno. Ma c'è tutto in forno questo, aspetta. Non ho capito. Profumo, trucchi tutti in forno. Cosa? Ah, adesso profumo i trucchi tutti in forno l'altro giorno. Sono dimenticati lì. Che ce l'ha detto c'è a me? No, dili che sono cubati, che non scoprire. Ah, sentito? Oh, no, non si può. Ma è italiana, vero? Cosa? Ho detto, ma è italiana, No! Che è italiana, sì. Di Bolzano, Di Bolzano, allora è confine, no? Parlate del... Parlo bene italiano io, non ti preoccupare. Buonasera. Buonasera. Che si dice di bello? Era documentato. Siccome mia madre ha quel vizio brutto di entrare in camera a rompere le scatole, allora. Eccomi qua, ho abbassato il volume macchino per fare un'oretta circa, ma l'oretta non è stata fatta. Vabbè. Luca! Ciao Simona! se mi vuoi tanto bene, vieni adesso a casa mia, ti prendo il panettone e quello che ti devo dare, perché io fra poco mi devo andarmene. No, io prendo quello che voglio. E che cosa vuoi? Dimmelo, che te lo compro. Non voglio niente, nulla, voglio dormire. Ma io per te, quello è l'altro, perché sei l'unico che io ti voglio bene nel palazzino. Ed è, oh, questo è l'altro. Scusa, ma io, scusa, ce l'ho qui, Luca. Tutti mi vogliono bene, insomma, mi prende, tutti mi vogliono, insomma, mi prende. Ma ti faccio pigliare la cola di sopra. Vado, allora, ti rispondo, non ti rispondo male perché c'è... Mi sembra, non so, la sento di splatter, ho questo malattio, stavo facendo di testa. Anna, che se non vado errando. Oppure la stavo trattando, non lo so, la sento. Come senti? Anna è qua, non è rimasto ascoltando nessuno. Avanti, Anna. Luca. Ehi, ciao Anna. Ma ho colpi, non so, Claudio, forse, no, Walter, un po' di splatter. Sì, che ti ascolto, se no vai qua, era di 5. Sto facendo una prova. Questo microfono, questo mic è amplificato. Adesso provo l'altro, mi dici di là di quello che vuole. Comparto con l'altro, va bene? Questa è molto amplificata con la modulazione, molto, assai, molto. Ma l'altra era meglio, è il solito microfono, non ci di più. Ma che lo sto parlando non è male, Luca, le simulazioni come sono? Aspetta un attimo, uso il malattio compatto, aspetta. Marco, vieni, pigliati il coso, il Galaxy, un secondo, vai, vieni qua. Luca! Aspetta, Luca! Aspetta un attimo, sto innescando qua. Il Galaxy, non è un Galaxy con voi, un attimo qua. Avevi la pigliata il Galaxy che te l'ho preso, ecco, così mi non pigli i colpi. Aspetta. Vai, Anna. Ma io? Adesso sto usando quello là, senza amplificazione, dimmi come va. Guarda, io ti ascolto meglio con questo, anche l'altro non è male, però è meglio questo, ti fa la voce più normale, dai. Va bene, sì, non mi dici questo malattio. Grazie. No, perché questo è l'originale, invece l'altro è macchina a tavolo. Però la batteria ce l'ho qui, che la devo comprare, ma l'altro è tutto tempo. Sì, andava, perché andava, però è meglio questo. Va bene. Niente, anche io stavo usando il microfono di tavola qui. Adesso questo qua è il microfono normale, un macchino con le calecca, il roger beat. Avanti Claudio. Claudio! Claudio! Ha cercato una chiamata lui, sicuramente MBM, Claudio! Aspetta un attimo, mi sta chiamando tra parte. Alessio! Dimmi! Ascolta, ma come non si chiama? Però sono sceso qua, a lui vivo io, capito? Poi momentaneamente non è che devo essere per forza qua, ma tra poco se non lo vedi a casa, si è ancora un'antenna, l'hai vista già, che sei per lì. Anna, come mai? Come mai? Ho fatto la scelta di Sabbia contro me quando stavo lavorando e niente, siccome è morto il mio padre, quindi ho lasciato la casa di sopra loro per poter continuare a vivere, se no con la pressione che c'è minima non ce la fanno, capito? Quell'appartamento lì è ancora affittato. E quindi ho fatto due scelte, io me la vado per conto mio e faccio vivere mia madre, il discorso è quello. Poi una volta che mamma mi dà, guarda, dove posso arrivare sopra, abita, e quella è casa mia, io c'ho l'antenna lì, e se no l'avevo lasciata, faccio tutto. Ma lei l'ha data, capito? Secondo me mio padre è morto 2 anni fa, di improvviso. E poi mi sono trovati con la pressione dimezzata, il discorso è quello, per potergli aiutare ho preferito andare, come stavo lavorando, mi sono voluto separare, anche per essere più tranquillo, perché la verità sono molto meglio. Sono stato in un appartamento unico, per dire, in 4-5 persone è un casino. Luca! Aspetta, ho chiesto una cosa a Anna. Anna, dal piano di sopra mi hanno chiesto che il microfono di tavola stanno usando. Mi metti la tavola, come si chiama? Lo sciure. Aspetta, hai copiato Manolato, se mi ricordo il nome. Ok, vai, parla. che microfono stai usando, Anna? Oh, l'originale, quello palmare. Non so fare. No, va bene. No, non lo puoi fare. Lo puoi fare, Luca, L'ho fatto io, me lo compro nuovo, l'ho fatto io. Mi sto scherzando. No, non traslasse, dai, non traslasse, non si può fare. Oh, Anna, però lo shooter esce più forte del radio, capito? Esce più forte. Beh, mica ci sono attratti, dai. Ma siamo di là, forse no, poca voce sta. No, va bene. Sempre con di polo stai dicendo? Eh sì, l'altra antenna l'ho smantellata, quella magnetica. Mi serve altro per il salvo. No, vabbè, ma scusa, ti ho detto faccia, ne ho di capo io, cosa ti muovo a smantellare? Mi devo comprare due PL nuovi, e ho preso il salvo ancora, però forse quello nuovo, questo sicuramente è tutto filato, non lo so. Ne ho di capo, Anna, non ne comprare, ne ho 50 metri, ne faccio sottolatti. Se lo do io un pezzo ti fai tutto il capo nuovo, le spezzoni nuove, capito? No, vabbè, ma adesso ce l'ho anch'io giù, da mia madre. A voi arrotolato ne ho, ma lo volevo nuovo perché sicuramente perde, no? Vabbè, c'è il vecchio, è chiaro che la casa oramai è consumata, è vecchia e va in perdita, però non ci sono problemi, capito? Boh, vediamo da, dopo le 7, tanto adesso sono in apparata, non è che c'ho tempo per stare in radio. Sì, già va bene. Luca! Walter, ce l'ha Walter. Perché ti parli? Ha preso la modulendi, ecco, vai a scaricare. Lui c'è una sovramuto da non tassare, Anna, capito? Quando parlano gli altri lui parla sempre sopra, è nato così. Cosa stavi dicendo, Anna, che non ti ho capito? No, non ha modulato sopra, l'ho chiamato io. Lascialo dire, no? C'è anche un periodo che ha preso così. No, sto scrivendo delle mail, Anna. Allora, dunque lei... No, ma Claudio, non ti ha sovramodulato, era in Corex da poco fa, poi aveva una pasta e si era sentato, volevo sapere se c'era ancora. Si è spostato di canale, si è spostato. Va bene, dai. Scendo un attimino dalla macchina che devo comprare roba. Sentiamo dopo, Anna. Comunque se vuoi facciare non c'è nessun problema. Te lo do io, capo, PL, ti faccio già tutte le espressioni pronte e così si è a posto. Grazie, gentilissimo. Comunque ringrazio ancora. Ma non ti ha sovramodulato, confermo che era in Corex. L'ho chiamato io perché ricordavo che era ancora in radio, ma non ti ha sovramodulato. Mi interessa niente, non faccio niente. Ciao, vicendo la macchina, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, buone compere, anche a me. Dimmi. Ma è inutile, la mania della forza c'è sempre. Il mio non è un pacchetto legale, è un pacchetto prestito lì, si chiama Arturo, quando ce l'hai dopo la festività me lo tiri duro. Adesso è un regalo, è già cambiato, ho messo la cravatta, tutto quanto, io lo fa da famiglia a prendere freddo, capo. Ma ti credi che te lo regalo? No, ci sono avuto un po' di colpi, ma quando sono dopo Capodanno. Beh, devo chiudere, ciao, scusa lei. Non c'è problema. Ciao, ci sentiamo Alessio, ciao Luca. Mi allontano un attimo. Ciao Anna. Poi mi farei sapere se c'è internet o se c'è la DSL a casa. Bene, ti prendo io. Ciao. Ok, ciao, comunque lo si Walter. Sì, comunque ce l'ho. Internet ce l'ho. Ok, alla prossima. Però stimpante, fermo giù. No, sono stanco, poi non ti spero. Poi questi giorni ho uno scontro da forza pesante. A parte quello, c'è Claudio, questi due stanno prendendo un po' le balle, lo devo trovare di persona per parlare, perché lui gli piace fare la scena alla radio. Devo mettere un po' in riga perché non mi piace molto come si sta comportando, allora nei miei confronti. Siccome lui è di quelli che gli piace fare casino in radio, ma non mi piace molto, allora dal whisky quando lo do in persona, non ho questi problemi. Si inventa sovramodulazioni, si inventa di tutto, lui ha periodi, appunto una persona, io l'ho già spiegato, anche se in ascolto, com'è sbatte male. Ci sentiamo, ciao, prima era al telefono, poi già ne dopo di mettere il passare del 23 che aveva un problema con la radio, per quello ti ha detto, era in un altro canale, mi ha chiamato al telefono, poi ci sono tornati nel 23 per non disturbare, non devo giustificare niente a nessuno comunque. Ciao, ti ho chiesto perché c'è un sito, poi andrò lì a vederti un po' di radio, ci sentiamo. Aspetta un attimo Anna che lo rispondo, scusa. E intanto io non sto aggredendo a nessuno, sei sempre tu quello che aggredisci la gente, poi io non ho voglia di incontrarti e non ho voglia di parlare, capito? Te l'ho già spiegato, abbiamo chiuso i discorsi e per me va bene così. Scusa se ho pensato che mi sono modulato, pensavo che hai parlato sopra, tutto lì. Non abbiamo più niente da dirci noi, rimaniamo così in radio come siamo rimasti sempre. Tu sei alla radio, io sono alla radio, ognuno fa quello che vuole e ti chiedo la cortesia, molto educatamente, di non permettermi di darmi consigli né di dirmi quello che devo fare. Punto e basta. Ciao, buon QRT, io sono qua in ascolto. Allora, ti darò il sito Anna, appena sarà possibile. Per finire con te, Claudio, tanto per puntualizzare, ricordati che ci dobbiamo vedere per qualsiasi, per un'altra cosa che anche se è una cazzata è un particolare. Allora, se falli avere a Franco quei documenti, ok? Non c'è nessun problema, anche in questo momento io non ho nessun problema. Anzi, se tu senti Franco, gli avevo già detto di farsi vedere per potervi dare quella documentazione che tu pensai. Solo che mi ha detto che avevate appuntamento stamattina e che quindi non ci potevamo vedere. Però per il resto non c'è nessun problema, guarda. Sì, tranquillamente, rimaniamo tranquillamente come siamo sempre rimasti. Però ti chiedo la cortesia di avere un occhio di riguardo nei miei confronti perché non te ne ho sotto gli occhi e non me ne hai sotto gli occhi. Non mi va di essere preso, non mi va di avere padre di famiglia, sono orfano da quando avevo 3 mesi e pertanto vado avanti per la mia strada senza avere problemi con nessuno. Sei sempre una persona stimata e squisita per me, quindi per non avere problemi rimaniamo d'accordo così. Tu fai la tua radio che io faccio la mia, non ti permettere mai a me di dirmi quello che devo fare, è solo una cortesia che ti chiedo, in modo che non abbiamo mai problemi. Poi per quella documentazione, quando vuoi, dove vuoi e come vuoi. Va bene. Allora, Anna, ce la prendo. Sì, che ce l'ho. 3x2.indias0.sw.it. Aspetta, India S0. Italia0SW.it. Aspetta, non mi scriveva la penna. Allora, IS0. Italia W. No, dopo gli S0 attaccato sempre, S, Sassari, Washington. Allora, IS0, dopo gli S0, come hai detto, W. Dopo gli S0 ti ho detto Sassari, S, Sierra, whisky. Ah, adesso ho capito. E poi? Punto IT. Franco a portare quella documentazione, quindi contatta lui. L'ho già visto stamattina, solo la prossima settimana, non è un problema. Va bene, comunque ti dia tutto. Va bene. Te lo ripeto la capo, 3x2.is0 Sierra Whisky attaccato.italia.it. Allora, giusto? Comprare, sì. Allora, mi reso, quanto significa questo S0? Cosa c'entra? Te lo dico perché è sempre così, cosa ti dico? Patata. Ah, non lo sapevo, cioè, questo è il tuo indirizzo, o il tuo sito? Un sito, non è posta elettronica, è un indirizzo internet. Ah, ecco, e quindi adesso me l'ho scritto. Quando vai su Google oppure sulla barra degli strumenti in alto, nella barra della ricerca, fai così, digiti www.is0serawhiskywhisky.it e dai invio e vedi le fotografie. Ah, adesso ho capito. Allora, www.is0www.it. Sassari. Sembra di Buduzò, ma non perché hai l'accento di un Buduzò, la testa come il granito. Cosa? Scusa la radio che io non ti sento bene, Walter. Aspetta, allora, mi ascolti bene a me? Allora, tre volte, vabbè, whisky, punto, yes e zero, Sassari, whisky, punto it. Sì, Walter, bene va. Capo a Luca. Cupo sto uscendo Luca? È un po' cupo, sì. Sono un satiro, non lo so perché. Capito Anna, sono levo, ecco. Ecco, sono levo più. Hola. Aspetta, lo ripeto io Luca. www.s0 Sassari, ma Sassari lo devo scrivere per essere solo la S. Punto T. Allora, www.s0 S. Ok, whisky.it. S, non devi scrivere tutto Sassari, no? S solo e basta. La S di Milano. Allora lo scrivo bene, dai, allora www.is0 S www.it, giusto? Yep. Ok, adesso capisco, ma non sono come il granito, sono un po' più morbida. Cioè la testa di mammo. Dopo 28 minuti l'hai capito. Ce l'hai l'FM? Sì, ce l'ho. Lasci l'FM un attimo. Mi senti meglio in FM? Sotto il numero di sul bale, no?